dalle intransigenti posizioni di Francia e Inghilterra. L'accordo Sykes-Picot, l'accordo segreto sulla spartizione del mondo arabo, si rivela blindato. Faisal rappresenta uno Stato che non esiste. Siria e Libano vanno alla Francia. Iraq e Cisgiordania, oltre ai protettorati su Palestina e Arabia, all'Inghilterra. È la sconfitta di Lorenz che da quel momento chiede solo di essere dimenticato. Quello che continua a vivere il mito, la leggenda, il fascino nei confronti di un uomo che forse passerà alla storia come l'ultimo eroe romantico. Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini. Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitino i loro sogni ad occhi aperti per attuarli. Ciò che io feci. E come tutti i venerdì con Alessandra Fiori sentiamo cosa vale la pena leggere, ascoltare, vedere in questo weekend. Per gli amanti dei libri romani o che vogliono spostarsi a Roma, da oggi fino a martedì c'è Più libri, più liberi, la 14ª edizione della Fiera della Piccola e Media Editoria al Palazzo dei Congressi di Roma, appunto. Conferenze, reading, spettacoli, laboratori e incontri con scrittori come Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Massimo Carlotto, Niccolò Manniti, Henry De Luca, Raffaele La Capria, Francesco Piccolo e molti altri, in un appuntamento che quest'anno ha un peso particolare, visto l'arrivo di Mondazzoli e la nascita di una nuova casa editrice, La Nave di Teseo, con Elisabetta Sgarbi che ha salutato la Bompiani. Quindi ottimismo e coraggio, considerando che tra il 2014 e il 2015 il bacino dei lettori si è ristretto di altri 848.000 e il mercato si è ridimensionato di un altro 3,6%. Ecco, nonostante i dati sconfortanti, o magari proprio per questo, uno scrittore molto tenace, Francesco Leto, autore de Il cielo resta quello, ha deciso di promuoversi a modo suo ed è tornato nel paese in cui ha trascorso l'infanzia e... Salve signora, senta, le posso proporre questo romanzo? Il libro? Sì, l'ho scritto io. Signora! Signora! Signora, l'ho scritto io! È bello! Ma che, le ricette? No. C'è un commissario. Commissario? Ecco, Francesco Leto, quindi lei garantisce che il suo libro non è intelligente? No. Non parla nemmeno di un commissario. Ma allora, cosa racconta il suo libro? Il romanzo si apre con la scomparsa di questa donna ormai anziana che si chiama Maria Bagnarota, ambientato l'intero romanzo a Bagnara Calabra, e da lì con un tuffo all'indietro si entra nella storia di questa donna e della sua famiglia e di tanti altri personaggi che ruotano attorno alla famiglia e la storia di un borgo di Bagnara Calabra. Ma uno di questi personaggi è Mia Martini, che tra l'altro è anche la storia che andrà in onda oggi, tra poco. Con questo romanzo volevo licenziare la mia propria infanzia e quindi ho messo dentro tutto ciò che d'immaginifico mi riportava le radici dell'infanzia e la voce di Mia Martini era tra queste cose. Poi ogni donna che racconto in questo libro deve combattere con una piccola o una grande maledizione. In qualche modo Mia Martini è l'alter ego di Maria, la sua protagonista? Sì, in qualche modo sì, perché in effetti racconto la forza di queste donne che però non possono nulla contro l'ineluttabilità di certi eventi. Alla fine è la Scalogna. Cioè quindi la Scalogna è più forte del destino? Invincibile. Ma il che non vuol dire che queste donne non siano combattive. Io non racconto personaggi inattivi o passivi. Io racconto la fatica di queste donne, quella di Maria, quella di Mia Martini e di tante altre. Però l'uomo è impotente di fronte a certe cose, non può nulla. Senta, ma con il cortometraggio che racconta la sua avventura di venditore porta a porta, ha creato il progetto Sfama uno scrittore. Cos'è esattamente? Concretamente io attraverso il sito www.sfamaunoscrittore.com, dopo il lancio del cortometraggio, chiedo direttamente ai lettori, a chiunque in realtà, di sfamarmi, sì, sia comprando il libro, chiaramente, leggendolo e facendomi sapere cosa ne pensa, e sia anche in maniera quasi letterale, quindi invitami a casa tua, mangiamo insieme. In fondo uno scrittore quando scrive è molto solo, siccome io soffro un po' di solitudine, è anche un modo per stare in compagnia. In bocca al lupo, grazie. Crepi. Francesco Leto, Il cielo resta quello, Frassinelli. Ma adesso entriamo in sala con la nostra inviata molto speciale. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Buongiorno dalla vostra grande cinofila Donatella. No, Donatella, cinefila semmai. No. E va bene. Il film di oggi è... E Monroy. Ma no, Donatella, mi scusi, Monroy. Dici? Eh sì, Donatella, che poi sarebbe Mioret in francese. Ah, ho capito. Pensa che io credevo che era un film sull'arrabbiatura che alla fine ti fa uscire le Monroy. Tu non sei uno stronzo. Davvero? Però c'è stata una bella esitazione. Ah sì, perché io non sono uno stronzo, sono il re degli stronzi. Perché lui è proprio il re degli stronzi, che è pure poco, perché è l'imperatore, è il gran capo della tribù. Donatella, abbiamo capito. Bravi. Allora, il film parla di una donna che poverazza si fa un sacco male sciando. E allora, mentre fa le cure, ha un sacco di tempo per ripensare alla storia con quello suo marito. Sì. Donatella, è chiaro? Scusa, ma mi ricorda un po' una cosa personale. Comunque questa tizia, poveretta, capisce che suo marito è uno tipo un po' infantile, che poi pensa ci fa pure un figlio. Ma la cosa poi è che lo sanno tutti e due. È un film un sacco vero, pure riflettivo. Ecco, sì, riflettivo. Perché vuoi che io sia come vuoi tu? Quando sei venuta da me perché sono esattamente come sono. Hai capito? Che ne sai tu di come ti volevo io, scusa? E poi, mica è vero, perché quando ci siamo conosciuti, tu non eri mica così, perché altrimenti io, ma con... Donatella, è tutto chiarissimo, però lei la sta prendendo un po' troppo sul personale. Facciamo una cosa, passiamo agli attori, le va? Sì, allora, lo stronzo lo fa il marito della Bellucci. Allora, Vincent Cassel, che tra le altre cose non è più il marito della Bellucci perché si sono separati. Ci credo. Vabbè, poi ci sta Emanu Becu, Emma, lo dici tu che tanto ce l'hai scritto. Va bene, certo, è certo, ho capito. Ma è un film di Maïwenn Lebesgue con Vincent Cassel, Louis Garrel, Emmanuel Bercot, che per questa sua interpretazione in Monroy è stata anche premiata al Festival di Cannes. No, no! Sì! No, lo dovevo dire io questo di Cannes. Vabbè, ormai l'ho detto, Donatella. È brava. Scusi, mi scusi. Ma ci dica, senta, vale la pena vedere questo film? Sì, sì, che vale la pena. Perché quando torni a casa tua, pure tuo marito si sembra meno stronzo. Sì, ho capito, sì. Oppure no, forse rimini proprio. Vabbè, però ti faccio sapere. Grazie, gentilissima. Prego, che stronzo che è. Come tutti i venerdì, eccomi con Pietrangelo Buttafuoco. Pietrangelo, allora, dove si va questo venerdì? Questo venerdì ti porterò, Alessandra, dentro il mantice della fisarmonica, e meglio ancora in una bellissima atmosfera, in una classe, spero rumorosa, chiassosa, al comando di Maurizio Piscopo, il maestro che ci racconterà della sua arte. Pronto? Un secondo preciso, perché sono in una classe così, facciamo stare un attimo zitti e ascoltano questa intervista. È una terza elementare. I più bravi chiederanno con me dopo, attenzione. Perché oggi abbiamo fatto ballare una tartaruga, una cosa splendida. Buongiorno maestro. Si sente male? Voi sentite bene o no? Maurizio Piscopo, sì. La sua fisarmonica, peraltro, è tra le più antiche. In che senso è un sussidiario didattico sin dalla prima elementare? Perché lo utilizzo per raccontare le storie del mondo, le storie dell'India, della Francia, della Spagna, dell'America e soprattutto della Sicilia, delle musiche dei barbieri. Quindi attraverso le storie della fisarmonica raccontiamo le storie del mondo. Lei ha scritto che i libri scolastici sono lontani dai bisogni dei bambini. Ci spiega perché? Perché i libri di oggi parlano del nord, non, con questo non voglio fare polemica, però dico, sì, noi vediamo nevicate, paese, si parla di Firenze, di Bologna, di Milano, di Roma, pochissime volte si parla del sud, e anche molti autori del sud nei libri non ci sono. Invece io ho pensato sempre che i libri dovrebbero essere vicini con le storie, con i racconti, con i sogni al mondo dei bambini di oggi, e nello stesso tempo ogni città, ogni scuola dovrebbe produrre il suo libro in maniera tale che i bambini conoscano ancora meglio la storia che è loro più vicina. In un libro addirittura ho trovato che mancava una provincia. C'erano nella Sicilia 8 province, mancava la provincia di Trapani. Senta, ma dove nasce il suo progetto iniziato con Musica dei Saloni, le tradizioni musicali dei barbieri, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale Barberia con Massimo Venturiello? Perché io sono cresciuto in una barberia, lì mi sono formato. I barbieri in Sicilia suonavano chitarra e mandolino, curavano le ossa e estraevano denti. Io ho fatto la libera università della barba, quindi ho imparato a suonare in una sala da barba, e allora ho detto, voi mi avete dato tanto con i barbieri siciliani che raccontano le storie del mondo, ed io devo rimanere insensibile. Scrivere una storia sui barbieri. È uscito Musica dai Saloni, ha avuto un successo strepitoso, siamo già quasi alla terza edizione, e da lì poi si è continuato con Serenata al Chiaro di Luna, le storie dell'America, le storie degli emigranti, quando si partiva per un nuovo mondo con Salvatore Ferlito, Peppe Calabrese e altri, e adesso sto scrivendo Carusi di Solfatara, per raccontare anche un po' quello che succedeva ai bambini che lavoravano all'interno delle miniere di zolfo, e già a 8 anni ed avevano l'anchilomastosi, non riuscivano neanche a camminare, il loro peso si distruggeva, e tutti gli scrittori siciliani da Peppe a Pirandello l'hanno raccontato. Maestro Piscopo, comunque è tutta un'aristocrazia particolare quella di chi ha lavorato dai barbieri, che ha frequentato questa libera università. Posso dire modestamente, Alessandra, pure io ho lavorato dal barbiere. Anche tu! Da Don Antonino Russo, ad Algira, nella via Diodorea, nella Sciata Mascia. Oh. Un'ultima cosa, siamo sotto Natale, maestro Piscopo, le novene con la fisarmonica per strada, le fate da voi? Sì, le ho fatte anch'io, perché tutto quello che riguarda appunto questo mondo dei barbieri, lì nascevano le serenate, i canti di Natale e anche i canti di Pasqua, addirittura all'interno delle barberie. Grazie, maestro! Ci fa salutare anche i suoi bambini? Ecco. Allora dite ciao! Mia bella signorina che ascolti lassù, socchiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Eccoci a parlare di musica con Franco Schipani. Ciao Franco! Ciao Alessandra! Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah! Affacciati alla finestra, amore mio. Allora, quello di Lorenzo Giovanotti, lo spettacolo da sentire, ma anche da vedere. Io l'ho visto qui all'Olimpico, allo Stadio Olimpico di Roma, una cosa veramente spettacolare. Però ormai gli stadi, cara Alessandra, sono chiusi perché fa freddo, è arrivato il calcio, e allora lui che fa? Se ne va nei Palasport, quindi... Se vi va di ballare, l'appuntamento è al Pala Alpi di Torino, domani 5 dicembre con Giovanotti. E si continua a ballare, come senti, cara Alessandra, con i Crazy Town. Questo è Butterfly in sottofondo. Pensa, questo gruppo è stato fondato dal rapper Shifty Shallocks di Los Angeles con Epic Mazur di Brooklyn del 1999. Allora, il punk che incontra il metal e l'hip hop è un po' strano, no? Strano? No. Perché è strano? Infatti, ma perché è perché strano? Perché io ho sentito anche di peggio a New York. Io ho sentito un cantante lirico negli anni 70 che cantava sulla una cosa metallica, quindi no, non è strano, non no. È strano, non è strano. Infatti, tutta alla fine è ballabile. Comunque, i Crazy Town sono di scena dopodomani, 6 dicembre, alla Rock and Roll Arena di Romagnano Sesia. Due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Poco più di 20 anni fa moriva Mia Martini, un'artista straordinaria, interprete di famosissime canzoni. Una carriera segnata e poi distrutta da una terribile calunnia. Una vita vissuta comunque da protagonista tra esperienze artistiche e umane che hanno fatto di questa cantante una donna indimenticabile. Il racconto è di Giovanni Minoli. Restate con noi.